serie di manifestazioni che noi stiamo svolgendo, anche con respiro internazionale come questo. Sono particolarmente contento che ci sia un'iniziativa come Marocco, che è un paese che mi ha sempre ispirato simpatia, è un paese sicuramente in una fase espansionistica e di consolidamento a livello internazionale. Noi come Italia abbiamo sempre rappresentato un paese di una certa significatività nel contesto internazionale. Adesso siamo un po' in crisi, ma tutto il mondo è in crisi, e quindi nell'ambito della globalizzazione credo che queste iniziative contribuiscano in modo significativo a accrescere le possibilità di intrecciare rapporti, relazioni, quindi di crescere sia sotto il profilo culturale e conseguentemente anche sotto un profilo economico, perché forse questi aspetti vengono sottovalutati, ma la crescita economica molto si lega agli aspetti socioculturali, non viene fuori per caso. C'è uno stretto collegamento tra i valori sociali, etici e lo sviluppo economico. E comunque, anche se non ci fosse, soprattutto per il presente e per il futuro, credo che sia un elemento indispensabile. Come è nata questa iniziativa? È nata grazie all'idea della nostra preside di scienze politiche, la professoressa Bagnini, che ha messo insieme una serie di argomenti su cui riflettere insieme ai colleghi di Marrakesh, e con il contributo anche della Commissione per l'internazionalizzazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ordine al quale, essendo professore di ragioneria e economia aziendale, appartengo anche io, e ringrazio il dottor Caputo di essere qui con noi questa mattina nell'occasione appunto dell'incontro con Marrakesh, e poi la Fondazione Etica per Roma. Sicuramente i temi saranno di grande interesse, scusateci per il ritardo, ma in tutti i convegni, in questo in misura ancora maggiore, c'è bisogno di un po' di tempo prima di iniziare i lavori. Non ho mai visto un convegno, una manifestazione che comincia esattamente nell'orario prefissato, anche per problemi di traffico, eccetera, eccetera. Io, contrariamente alle mie abitudini, questa mattina ho dei problemi da risolvere qui in Ateneo, e quindi lascerò i lavori alla presidenza della professoressa Bagnini, poi magari più tardi tornerò per ascoltare insieme a voi cosa dicono i relatori. Bene. Professoressa. Grazie al Magistro Lettore, che affianca sempre noi docenti della Commissione di eventi, di conferenze, di incontri, particolarmente tiene a questi incontri internazionali, e che nei suoi progetti l'Università deve diventare un'università più possibile internazionale. Ora abbiamo il piacere di avere dei saluti, intanto dei saluti accademici col professore Noemi Jamal, che prego di prendere la parola. Grazie. Voglio parlare italiano, però. No, je vous en prie, vous parlez français. Ah, oui. On parle français à italien. Alors, va bien, on fait un peu le français avec l'italien. Spagnolo, si vous voulez. Voglio parlare italiano, però, un accento non perfetto. C'est pour les raisons qu'on va parler français. Donc, bonjour, monsieur. Le public, il m'est agréable, ou bien il nous est agréable, en tant que responsable de l'université algérienne, de se retrouver ici dans un pays auquel nous éprouvons beaucoup d'affinité, beaucoup d'affection. Nous sommes là dans le cadre, si vous voulez, d'une collaboration avec cette faculté, même si le temps ne l'a pas permis. Comme vous le savez, le monde arabe a connu ce qu'on appelle le printemps arabe, la primavera arabe. Pour nous, en tant que Marocains, il n'y avait pas ce printemps arabe. la vostra canto tragique, sapez-vous, ce qui s'est passé en Libye, en Égypte. Le même scénario ne s'est pas produit au Maroc, étant donné que le Maroc est doté d'une constitution constitutionnelle depuis 2011. Et cette constitution, si vous voulez, a organisé le, ou bien a fait doter le Maroc d'un national juridique très, très important. D'une part, les conventions internationales, et conventions internationales, il y a une, ce qu'on appelle une suprématie de la convention internationale par rapport aux lois internes. Ça veut dire que le Maroc s'est aligné aux pays, je dis bien européens, mais aux pays développés, sur ce point. Malheureusement, le Maroc, ou bien le cadre de la coopération entre l'Italie et le Maroc n'a pas suivi. On a d'une part, des conventions qui ont été signées avec la France et l'Espagne, mais malheureusement, beaucoup de choses restent à faire entre l'Italie et le Maroc. On prend par exemple la convention franco-marocaine signée en 1957 et un protocole d'accord signé encore en 1981 qui permet, si vous voulez, l'exécution de tous les jugements, de tous les actes des pays français ou bien des pays espagnols sur le territoire au Maroc. Mais pour l'Italie, il reste beaucoup de choses à faire sur ce plan. Le pays a été, ou bien est doté d'un national juridique depuis 1990, de la création des tribunaux administratifs, et même commerciaux. Donc, le Maroc a fait bénéficier aux investisseurs, que ce soit européens ou arabes, si vous voulez, de national juridique qui lui permette, si vous voulez, de venir au Maroc, de s'installer au Maroc et d'investir au Maroc. Nos juges sont parfaitement bilingues, voire même trilingues, dans un pays en sous-développement comme le Maroc. Maintenant, je ne vais pas être long, parce que je sais bien qu'il y a d'autres interventions, mais je vais vous donner juste un peu, si vous voulez, des points sur les atouts qu'offre le Maroc, c'est-à-dire les atouts d'un pays comme le Maroc. On prend par exemple la position géographique de ce pays, de notre pays. Comme vous le savez, le Maroc est à 35 minutes, 35 minutes d'Espagne, et à 13 horas de Menos, 13 horas d'Italie et de Rome. Même le Maroc peut jouer, si vous voulez, un rôle très intéressant entre l'Afrique noire et l'Europe. Il y a encore un point très important au Maroc, c'est que les langues sont presque tous parlées au Maroc. On prend le français, qui est notre deuxième langue, seconde langue, tercera langue, English, et vous trouvez encore des Marocains qui parlent parfaitement, perfectement la langue italienne. Bien sûr, il y a une forte communauté qui réside ici, si vous voulez, en Italie. La position politique du Maroc, le Maroc a toujours, si vous voulez, œuvré pour une politique, pour une stabilité politique dans le monde arabe. Il y a ensuite un point très important que vous devez retenir, c'est qu'il y a une cohabitation, si vous voulez, entre musulmans, cristianos et judéos. C'est-à-dire qu'il y a une cohabitation entre les musulmans, les juifs et les chrétiens. Dans un pays comme là, on trouve la mosquée, comme vous pouvez trouver la synagogue, comme vous pouvez trouver l'église. C'est dans un pays, dans une ville comme Marrakech, Agadir, Rabat, Casa. Il y a des synagogues, il y a des mosquées, il y a des, si vous voulez, on peut, si vous voulez, parler un peu, qui peut, qu'est-ce qu'il peut, ou bien le Maroc, qui peut offrir les opportunités du Maroc. Je peux même vous dire qu'il y a pas mal des Européens qui s'installent dans le pays. Pourquoi dans le pays? Parce que tout simplement, il y a un système fiscal très efficace. Un système fiscal qui permet, si vous voulez, aux retraités, que ce soit, je parle de la convention franco-marocaine, c'est-à-dire les retraites des Français, ne sont pas sujettés à ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire tout Français retraité, ou bien tout Espagnol retraité, je pense qu'il faut travailler sur ce sens pour utiliser un peu l'Italie, peut s'installer au Maroc sans même, si vous voulez, être assujetté à ce qu'on appelle l'IGR, ou bien l'imposta sur le revenu, l'impôt sur le revenu. Le système fiscal est aussi propice pour le Maroc, c'est-à-dire les investisseurs étrangers peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la garantie de transfert, c'est-à-dire les investisseurs, une fois qu'ils s'installent au Maroc et investissent dans ce pays, peuvent rapatrier tout l'argent, le fonds, ce qu'on appelle la garantie de transfert, c'est-à-dire bénéficier, si vous voulez, d'une garantie de transfert. Les conditions de vie sont meilleures aujourd'hui au Maroc. On a une importante infrastructure. On se permet même d'organiser une coupe de monde des clubs champions. Pourquoi pas pour le foot. La plupart des villes au Maroc sont reliées par les autoroutes. Donc il y a une infrastructure très importante dans ce pays. Maintenant, si on veut parler, si vous voulez, dans le cadre de coopération entre les universités, ce qui nous intéresse, le point qui nous intéresse en tant que représentant de la faculté ou bien de l'université canadienne de Marrakech, si on veut parler du cadre de la coopération entre l'université de Marrakech ou bien l'université du Maroc et l'université de cette ville, je vous rappelle que nous avions des accords, que nous avions déjà une coopération entre l'université de Marrakech et l'université de Foggia. Et qu'il y avait pas mal d'étudiants italiens qui sont présentés à Marrakech et qui ont reçu une formation adéquate dans le cadre d'un master, si vous voulez, d'un master sur les conditions de femmes au Maroc. Bien sûr, le Maroc a connu législation très adéquate à propos de la condition de la femme au Maroc. On n'a pas, si vous voulez, une législation qui permet maintenant, si vous voulez, de favoriser les conditions de la femme. Dans ce cadre, ce qu'on appelle un programme, si je ne me trompe pas, campus, on a eu un accord avec l'université de Foggia. Et une université autrichienne, une université au Maroc. C'est-à-dire que sur 9 mois, sur 12 mois, il y a 4 mois d'études en Italie, et 4 mois d'études en Marrakech, et 4 mois d'études en Autriche. C'est une belle expérience dans le cadre qui a été financé par l'Union européenne. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut, pour conclure, si vous voulez, cette petite intervention? Soyez d'abord les bienvenus, bienvenue dans Marrakech. Et qu'est-ce qu'on peut conclure? Pour conclure, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a moyen, si vous voulez, d'avancer et de, si vous voulez, de travailler sur ce sens, c'est-à-dire de faire un échange culturel, bien sûr, un échange culturel sur plusieurs points. Hier, on parlait avec notre ami italien, il m'a parlé qu'il est intéressé, si vous voulez, sur le sujet du blanchiment d'argent, étant donné que le blanchiment d'argent reste un sujet d'actualité, un sujet qui pose pas mal de problèmes et de problématiques, si vous voulez, dans les pays méditerranéens. Ben, je peux dire par là qu'il y a beaucoup de choses à faire entre l'Italie et le Maroc. Dans le cadre de l'enseignement, On peut, par exemple, envisager, si vous voulez, la signature d'une convention. Je suis là dans le cadre, c'est-à-dire, vous serez les bienvenus, on va organiser un congrès au Maroc sur le blanchiment d'argent. Et vous êtes tous, si vous voulez, ceux qui sont intéressés peuvent venir pour intervenir dans le cadre, si vous voulez, d'une coopération sur les Marocains-Italiens. Bon, on a connu aussi la décentralisation. On venait de parler tout à l'heure avec notre ami sur la décentralisation sicilien. On peut, si vous voulez, envisager une coopération même avec la Sicile. Donc, voilà, en bref, ce que j'avais à vous dire. Et je vous remercie et je passe la parole à madame Fabiane. Merci, professeur Rémi Jamal, pour votre intervention. Maintenant, la parole, c'est le vice-président de la Cour suprême du Maroc, Hassan Atatürk. Parla arabo e poi ci sarà una breve traduzione grazie al professor Magdoud, il nostro docente di lingua araba. أيضاً حتى الأجانب الذين يجدون إلى المغرب. إذن محكمة النقد أو لابورت كاساسيون باعتبارها بمعنى قمة تنصب على قمة هرم القضاء في المغرب، فهي تسعى دائما إلى توحيد الاجتهاد القضائي داخل المحاكم المملكة، وتسعى إلى ترسيخ أو تجسيد ما يسمى بالحقوق والحريات في المغرب باعتبارها ضمانا الوحيدة لتوفير هذا الأمن الذي يسعى إليه الجميع. إذا أقف عند هذا القدر وشكرا لكم سيد الرئيس. Il nostro giurista, dopo aver salutato e ringraziato per questo invito, chiaramente considera questo incontro contenitore di molte argomentazioni, di molte idee, considerando che la Corte di Cassazione del Marocco è considerata una delle istituzioni del Regno del Marocco molto importante, che contribuisce a approfondire un modo del sapere giuridico da una parte, e dall'altra parte garantire i diritti principali, i diritti essenziali dell'uomo. Chiaramente questo tribunale è molto importante in quell'area, in quanto noi sappiamo benissimo, questo lo dico io, noi sappiamo benissimo che ci sono delle controversie per quanto riguarda lo stato del diritto, lo stato della democrazia nell'area del Maghreb e nell'area, diciamo così, dell'altra sponda del Mediterraneo in generale. Lui ci parla di dell'interesse dell'Unione Europea per l'operato di questi tribunali supremi, delle corti supreme del Marocco, delle legislazioni relativa allo sviluppo sociale, economico e di incoraggiare l'attività della società civile. Dunque garantire i diritti, garantire le libertà e stabilire un sistema amministrativo e giuridico che possa realizzare questi quesiti. بالمناسبة التعاون الذي يمكن أن يقع ما بين هذه الجامعة ومحكمة النقد، لأن محكمة النقد تتوقف على قسم خاص بالتوثيق والدراسات والبحث العلمي. إذا مجالات التعاون ما بين هذه الجامعة، أولا في هذا المجال أنه يمكن أن تكون هناك اتفاقية مع الجامعة وشراكة إيجابية من حول تبادل الخبرات والزيارات والتدريب والاطلاع على القانون، الدراسات القانونية والقضائية في هذه الجامعة أولا. ثانيا بأن هناك لا تفوتني أيضا بأن هناك هدايا ستقدم من محكمة النقد كتذكار لهذه الجامعة، إذا يجب الإعلان عنها أيضا. Sottolineiamo anche l'importanza, perché sembra strano che c'è una cooperazione e un accordo di cooperazione fra un tribunale, una corte suprema e una università, però hanno stabilito già con molte parti dell'Europa questo tipo di cooperazione con le università, uno per scambio di conoscenza giuridica delle varie facoltà di giurisprudenza, di diritto insomma in generale, sia del diritto pubblico che diritto privato, che diritto commerciale, economico, eccetera. Dunque anche l'università viene considerata come un punto dove ci sono prospettive e gli studi per le leggi, cioè non metti legge o non entra, però nel campo della ricerca giuridica è molto utile per queste università. Comunque lui desidera donare un dono del tribunale all'università come un segno di inizio di una cooperazione fra le due parti. Comme vous le savez, avec le phénomène croissance de la mondialisation, la tendance à la collaboration régionale est devenue une caractéristique majeure de l'économie mondiale depuis le milieu des années 80 et tous les indices montrent la tendance croissante de ce phénomène dans les années à venir. Les conventions signées pour la constitution des zones de libre-échange dans les pays du continent américain, du Pacifique et d'Amérique latine est aussi l'intensification de la collaboration économique entre les pays de l'Union européenne aura des conséquences importantes sur l'économie mondiale en général et sur les pays en développement et sur les pays l'Union européenne aura des conséquences importantes sur l'économie mondiale en général sur les pays en développement, en particulier ces pays qui ont adopté à l'heure actuelle des initiatives d'intégration se basent sur l'ouverture commerciale et le développement économique. Pour assurer le succès de ces initiatives, nous constatons que certains pays en développement cherchent à établir des partenariats et des accords de libre-échange avec les pays développés afin de garantir l'accès à leur marché et de profiter de la technologie et d'améliorer le climat d'investissement et de la qualifier ou bien et de qualifier la performance des différents secteurs économiques. De nombreux économistes indiquent que depuis les années 1990, les relations nord-sud se réorganisent de nouveau. Et dans ce cadre, entre le projet qui a été annoncé lors du sommet de Barcelone en 1995 et vise à créer une zone de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du sud de la Méditerranée. La nouvelle génération d'accords de partenariat euro-méditerranéen diffère. La nouvelle génération d'accords de partenariat euro-méditerranéen diffère des accords de partenariat dans les années 60 ou des accords de coopération dans les années 70 qui étaient des accords purs, commerciaux. Et au contraire, nous constatons que les nouveaux accords ont un large potentiel. Ils comprennent une coopération financière, économique et technique, un axe social et culturel, et un dialogue politique et sécuritaire. Pour en mettre en lumière le sujet de la coopération économique euro-méditerranéenne, nous amène à se demander sur ce qui a été réalisé et ce que nous espérons de cette coopération. Nous allons essayer d'abord, dans cette intervention, l'évaluation du partenariat euro-méditerranéen. Les circonstances régionales et internationales confirment que la relation cohérente entre l'Union européenne et les pays méditerranéens est vitale, non seulement pour les parties impliquées dans le partenariat, mais pour la stabilité politique et économique dans le monde entier, malgré la perception de toutes les parties de l'importance de cette relation et la nécessité d'accélérer le processus d'intégration, cependant et après plus d'une décennie sur la signature de la déclaration de Barcelone, comparé aux objectifs de la coopération, peu de choses ont été réalisées. Les relations euro-méditerranéennes ont devant et la long chemin à parcourir afin d'atteindre les objectifs de la déclaration de Barcelone. Coopération économique. Et ce qui concerne le volet économique qui vise à réaliser la prospérité de créer une zone de libre-échange d'ici 2010, la population, la plupart des observateurs estiment que l'objectif du libre-marché est difficile à atteindre au cours de prochaines années en raison des effets négatifs, à savoir l'ouverture progressive sur le produit industriel de l'Union européenne aura conséquence néfaste sur la croissance à moyen terme en raison de la baisse d'activité dans les secteurs protégés et beaucoup moins compétitifs, la suppression des droits de douane pèsera lourdement sur le budget de l'État à cause de la réduction des recettes douanières qui représentent une part non négligeable dans les recettes de l'État. La suspension des droits de douane de manière unilatérale sur le produit industriel provenant de l'Union européenne exercera une pression sur la balance commerciale des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée en raison de l'accroissement des importations de ces produits. En plus, et dans le moyen terme, il y aura une demande supplémentaire de biens d'équipement et des biens intermédiaires dans les pays méditerranéens en raison de la réallocation des factures de production. Bon, pour ne pas être lent, je passe directement pour le volet politique et sécurité. Malgré la domination de l'économie, le volet politique est un souci qu'on a entre les deux rives de la Méditerranée. En tant que les pays de l'Union européenne essaient de protéger ses frontières contre le terrorisme, la drogue et l'immigration clandestine, le sud et l'est de Méditerranée sont à la recherche d'affirmer son autorité en essayant d'élever le niveau de vie de leur population et gagner le pari de développement dans leur communauté. Sinon, si nous voulons évaluer la situation politique et la sécurité dans le partenariat euro-méditerranéen, nous constatons que, après plus de 10 ans, à la déclaration de Barcelone, toujours une question centrale, sans réponse, rendant la partenariat un simple accord qui a besoin de nouveaux accords afin de soutenir ces mécanismes pour atteindre les conflits tels que la question palestinienne et le conflit du Sahara marocain et la crise de l'Égypte constituent encore un obstacle au progrès de la société. En travaillant là d'accord sur un objectif de partenariat, à savoir l'axe politique au sein des événements du 11 septembre 2001 et la guerre subséquente d'Irak ont effecté le processus de Barcelone. La division de l'euro européen sur la guerre a créé une confusion, je dis bien une confusion, dans la relation entre le Sud et le Nord de la Méditerranée et la lutte contre l'autorisme et la migration du Sud vers le Nord est devenue la principale préoccupation de certains partenaires européens au cours cette année, en dépit du règlement des conflits israélo-arabes et des questions de droits de l'homme et de la démocratie dans la région. Et je ne veux pas être long plus que ça. Merci beaucoup. Internazionalizzazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Buongiorno, fa un certo effetto essere qui. Sono passati molti anni dopo l'ultima volta che ho parlato in un'aula dell'università. L'altra volta c'era molta meno gente ed ero seduto dall'altra parte del tavolo. Quindi oggi come ad ora faccio appello alla vostra indulgenza verso le mie modeste doti di oratore. Quello che si sta svolgendo qui oggi è un evento speciale e sono onorato per l'invito a farne parte fatto dall'Università Niccolò Cusano alla Commissione Internazionalizzazione delle Imprese dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, da me presieduta. Saluto e ringrazio dell'opportunità il Rettore, il Professor Fortuna, la Preside della Facoltà di Scienze Politiche, la Professoressa Pagnini ed il Professor Borcasi, docente di questa università e componente della Commissione Internazionalizzazione delle Imprese. Saluto gli illustri rappresentanti delle istituzioni del Marocco, i relatori, i colleghi presenti e tutti voi qui intervenuti per assistere al convegno. Un saluto particolare lo rivolgo ai giovani che stanno studiando per diventare i professionisti del prossimo futuro, ai quali auguro di avere orizzonti senza confini. La Commissione Internazionalizzazione delle Imprese è stata istituita l'anno scorso dal Consiglio dell'Ordine di Roma per andare incontro alla grande attenzione che sta maturando tra i commercialisti verso la necessità di poter assistere le imprese clienti nella realizzazione di progetti di penetrazione nei mercati esteri come unica opportunità di sviluppo se non di sopravvivenza delle imprese come dei commercialisti. Io ricopro anche il ruolo di segretario generale dell'Associazione Vicina, che è un'associazione internazionale di commercialisti ed altri professionisti, esperti nelle diverse aree aziendali. Gli associati di Vicina condividono informazioni, relazioni e competenze per produrre studi, ricerche e modelli operativi, con l'obiettivo di favorire la crescita professionale e la diffusione della cultura dell'internazionalizzazione e dell'innovazione tra i commercialisti, gli altri professionisti e per loro tramite alle imprese. L'Associazione e la Commissione hanno in comune lo scopo di diffondere la cultura dell'internazionalizzazione. Che cos'è l'internazionalizzazione? Uno dei maggiori successi dell'Unione Europea è stata la creazione di un enorme mercato unico di più di 500 milioni di consumatori. Al di là dell'Europa, il fenomeno della globalizzazione, caratterizzato da drastiche riduzioni degli ostacoli al commercio e dei costi di trasporto, di comunicazione e di informazione, ha aperto enormi opportunità. Tuttavia, per molte piccole e medie imprese, le frontiere nazionali rappresentano ancora un ostacolo significativo all'ampliamento delle loro attività. Esse dipendono ancora in gran parte o esclusivamente dal mercato nazionale, malgrado il fatto che sono comunque già esposte ad un'intensa concorrenza internazionale. Noi ci occupiamo delle PMI in quanto costituiscono la maggior parte del tessuto produttivo italiano e conseguentemente della nostra clientela e sono anche quelle che hanno maggior bisogno d'aiuto. C'è un rapporto diretto tra l'internazionalizzazione e l'aumento della redditività delle PMI. L'internazionalizzazione consente di accedere a una più ampia base di clienti, a un maggior numero di fornitori o a una più intensa esposizione alle nuove tecnologie. In linea generale, l'internazionalizzazione offre un percorso per aumentare la redditività, la sopravvivenza nel lungo periodo e una maggiore competitività, elementi che costituiscono i principali vantaggi di una valida strategia di internazionalizzazione. L'internazionalizzazione non consiste solamente nell'esportazione. La cooperazione trasfrontaliera, la partecipazione a reti economicamente efficaci, la ricerca di approvvigionamenti competitivi e le nuove tecnologie sono elementi importanti nell'impulso delle PMI moderne verso l'internazionalizzazione. C'è un forte collegamento tra innovazione e internazionalizzazione. Entrambi questi elementi contribuiscono positivamente alla crescita della competitività. Malgrado i vantaggi ad andare all'estero, costituisce ancora un passo non facile per la maggior parte delle piccole imprese, le quali sono soggette alle seguenti criticità. Scarsa sensibilità. Ampliare le proprie attività all'estero è ancora considerato non necessario o troppo costoso e rischioso. Difficile accessibilità alle informazioni necessarie. Molte imprese, in particolare le più piccole, quelle che muovono i primi passi all'estero, non hanno le risorse e le conoscenze specializzate per identificare le opportunità di affari, i soci potenziali, le prassi commerciali estere, le procedure di esportazione, la normativa, le specifiche dei prodotti di importazione, i requisiti di commercializzazione e così via. Inadeguatezza delle risorse umane. L'impegno nei mercati internazionali richiede maggiori competenze, capacità di gestione e disponibilità nel lungo periodo di idonee risorse umane per sviluppare una strategia di internazionalizzazione senza mettere in pericolo le attività quotidiane. Altra criticità, le insufficienti disponibilità finanziarie. Finanziare l'internazionalizzazione costituisce un problema duplice. Da un lato è necessario acquisire informazioni su nuovi fattori critici e sui meccanismi finanziari dell'internazionalizzazione. Dall'altro è necessario poter accedere ai fondi aggiuntivi necessari a finanziare le operazioni internazionali. Ultima criticità, la bassa propensione delle reti. Le reti agevolano l'interazione tra le varie imprese che condividono obiettivi e interessi comuni e rappresentano una fonte di sinergie vantaggiose. La condivisione delle spese, un accesso migliore o più rapido alle nuove tecnologie da potenziali soci e così via. Ma anche per poter utilizzare lo strumento delle reti, le PMI incontrano le difficoltà sovraesposte. Qual è il ruolo dei commercialisti? Se prima che iniziasse la crisi economica, la ricerca di sbocchi commerciali oltre confine poteva considerarsi appannaggio di grandi aziende o di imprenditori illuminati, ora deve diventare l'esigenza principale della generalità delle imprese per sopperire alla progressiva riduzione del mercato nazionale. Questo fatto deve essere colto da noi commercialisti quale opportunità per sopravvivere ad un sistema economico, professionale e sociale che tende a soffocarci e prevaricarci, relegandoci al ruolo di meri addetti fiscali dell'amministrazione pubblica. Ciò vale soprattutto per i giovani, che iniziando la professione in questo periodo buio incontrano maggiori difficoltà lavorative. Però loro possono riuscire più facilmente a dedicarsi all'internazionalizzazione, avendo una maggiore apertura mentale e più tempo da dedicare allo studio della materia e alla costruzione dei rapporti professionali che servono per tale attività. Siamo convinti che attraverso l'attività dei commercialisti, che sono la figura professionale naturalmente più vicina agli imprenditori, sarà possibile stimolare le piccole imprese a svilupparsi con l'internazionalizzazione, contribuendo così alla crescita del sistema paese. Il processo dell'internazionalizzazione delle imprese è estremamente complesso e richiede di essere programmato in modo meticoloso e con un approccio progressivo per evitare onerosi insuccessi. I commercialisti hanno una professionalità necessaria per supportare le imprese nelle varie fasi di questo processo, ma è necessario implementare le competenze per poter fronteggiare tutte le criticità sopravvidenziali. La crescita culturale che perseguiamo deve iniziare dall'acquisire la consapevolezza della necessità di dover collaborare con altri colleghi per poter affrontare temi complessi come questo. È determinante entrare a far parte di una rete di professionisti con i quali condividere informazioni, relazioni e competenze. Oltre alle competenze, occorrono le informazioni. Per questo promuoviamo la conoscenza dei paesi che offrono interessanti opportunità di mercato come il Marocco. Il Marocco è un paese stabile politicamente, che non ha vissuto la tumultuosa fase della primavera araba. L'economia marocchina si è caratterizzata negli ultimi anni per una crescita costante, con una crescita del 4% l'anno scorso, bassa inflazione, nel 2013 era il 2,5%, costo del lavoro contenuto, il salario minimo è pari a circa 300 euro al mese, un ampio grado di apertura agli scambi internazionali, hanno un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti dal 2005 e hanno accordi di liberalizzazione dei prodotti industriali ed agricoli con l'Unione Europea dal 2008. La Banca Mondiale prevede per il Marocco una crescita del prodotto interno lordo del 3,6% per quest'anno. Le previsioni per gli anni successivi sono ancora più positive, 4,4% nel 2015, 4,7% nel 2016. Confrontate le previsioni che ha l'Italia, sono di tutto interesse. Tali incoraggianti prospettive di crescita rendono l'economia marocchina come una delle più solide e stabili nell'area della meta, attraversata da profonde crisi politiche e socio-economiche. Per questo motivo, mentre tutto il Nord Africa vede complessivamente una diminuzione dell'1,8% nell'afflusso di investimenti diretti esteri, il Marocco nel 2013 ha ricevuto IDE per un importo di 3,5 miliardi di dollari, con un incremento rispetto all'anno precedente del 24%. In base ai dati Istat, l'interscambio tra Italia e il Marocco è stato pari a 2 miliardi nel 2012 e nel 2013 è cresciuto di un ulteriore 10%. Il saldo è tradizionalmente positivo per l'Italia, di circa 800 milioni l'anno scorso. Le nostre principali esportazioni verso il Marocco sono prodotti della raffinazione petrolifera, macchinari, prodotti chimici e materie plastiche, apparecchiature elettriche. Le esportazioni marocchine verso l'Italia sono prodotti della pesca, abbigliamento, parti e componenti di autoveicoli. I settori nei quali il governo marocchino sta investendo molto e dove si intravedono opportunità per le aziende italiane sono le infrastrutture, la logistica, la filiera dell'automotive, le energie alternative, l'agroindustria e il turismo. Occasioni come quella che ci viene offerta oggi con questo convegno sono fondamentali per acquisire l'altro importante elemento di crescita che sono le relazioni. Relazioni con rappresentanti delle istituzioni e del mondo professionale di un paese come il Marocco, che abbiamo visto costituisce un'interessante opportunità di crescita economica. Relazioni che auspico possano portare a realizzare un ponte per agevolare gli scambi tra i due paesi, sia di tipo economico che culturale. Per quanto riguarda la categoria professionale che qui rappresento, vorrei che si potesse arrivare a stringere accordi di collaborazione e di scambio di conoscenze tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l'omologo Order of Chartered Accountants in Morocco. Concludo con una perla di saggezza che ritengo adatta ai professionisti e agli imprenditori che sono ancora resti a guardare oltre il proprio orizzonte. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla, di Martin Luther King. Mentre per i giovani qui presenti, che saranno probabilmente i professionisti e gli imprenditori del futuro, ho questa perla. L'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate, di Steve Jobs. Vi ringrazio per l'attenzione. معرفة القوانين الجديدة والمعلومات المتعلقة بين تبادل التجاري بين الدولتين حتى يمكنهم أن يعطوا النصيحة الناجعة لمستشارك استشاريين. تكلم أيضا عن أهمية التبادل التجاري والتعاون بين المغرب وإيطاليا وعن الخطوات الهامة التي أنجزها المغرب في هذا في طموحاته سواء من ناحية القوانين وذلك في الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 2008. أشار أيضا إلى نسبة النمو في المغرب وبأنها 4% وهذه نسبة عالية جدا بالنسبة لإيطاليا وتوقعات البنك الدولي في المستقبل توقعات الاقتصاد المغاربي وسياسة الانفتاح الجديدة للاستثمار الأجنبي كل هذا يراه أنه يدخل في إطار التعاون الأكاديمي لتبادل المعلومات والتشريعات والقوانين سواء عن طريق مباشر أو عن طريق المؤسسات الأكاديمية. تكلم أيضا عن الصادرات والواردات وما تصدر إيطاليا للمغرب ما تصدر إيطاليا للمغرب وما تستورد وما تصدر وما تستورد من المغرب وأشار إلى أن الميزان لصرف إيطاليا بنسبة 300 مليون وأنما تصدر في إيطاليا هي الآلات الزراعية والمنتجات البترولية والمنتجات المرية والآلات والمعدات وكذلك المعدات البلاستيكية وما تستورده هي الأسماك ومنتجاتها والمنتجات ومشتقاتها المنتجات البحرية وكذلك الإنتاج الزراعي نتحدث أيضا عن الاقتصاد من ناحية الأخرى من ناحية السياحة ومن ناحية المنتجات المعدنية. بالنسبة للبروفيسور يعني بين قوسين كرئيس يعني على قطاع الصناعة الجديدة بمراكش كلمة الأخ مشكور يعني ما تكلمش على قطاع الصناعة التقليدية كإكسبور يعني احنا فهذا شيء طويل بالنسبة لنا ولكن اللي أهم وهو البحث على كيف يمكن في المستقبل تنظيم معارض للصناعة التقليدية بإيطاليا وهذا جد مهم. Parla invece che è sempre stato molto anche accennare dell'importanza dell'artigianato marocchino, dell'importanza che ha per lo scambio economico anche per organizzare e istituire delle mostre di questi prodotti per rafforzare il rapporto anche dal punto di vista insomma, economico e culturale di questi movimenti, ma poi potrebbe raccogliere insieme tutti i due. Questo dice il perché lui è vicepresidente della regione del sud del Marocco, ma contemporaneamente presidente della Camera del artigianato e delle prodotte del Marocco. Un modo di approfondire le reciproche conoscenze. Sarà tanto che abbiamo parlato. Aussi, ça n'empêche pas monsieur. Je parle un peu de l'artisanat du service, ce qui est très très important chez vous et qu'on n'a pas chez vous. C'est l'artisanat du service. Ça veut dire l'électricité de bâtiment, l'électricité de la voiture, la mécanique aussi. On a besoin d'avoir, dans le cadre d'apprentissage, ou bien, c'est ça, l'Italie c'est très avancé. Vous êtes évolué. Vous êtes évolué, et ça on le sait très bien, dans le cadre de l'artisanat de service, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est construction bâtiment, l'électricité du bâtiment, la plomberie aussi du bâtiment, l'énergie solaire, l'électricité de voiture, aussi la mécanique, nous sommes dépassés. La vérité, nous sommes dépassés par l'événement, nous sommes dépassés par la technologie. On aura besoin, pour être à la page, on aura besoin des partenariats dans ce cadre, dans l'avenir, et c'est très très très important pour nous. Je profite aussi de remercier notre ami, le professeur. C'est le professeur Boudou, aussi mademoiselle, aussi notre professeur, monsieur, qui nous a appuyé hier soir. On est rentré, on est allé un peu tard. Aussi, je vous invite de venir à Marrakech dans le cadre d'une fédération, vous organiser dans le cadre d'une fédération, et venir nous voir dans nos champs. Soyez la bienvenue à Marrakech. Vous organisez avec monsieur le professeur Mordeud. Il était déjà chez nous, il nous connaît très bien. On lui fait confiance et on lui fait confiance. Soyez la bienvenue à Marrakech. Voilà. Merci. Ringrazio molto il dottor Leonardo Maria Caputo che ha avuto questa felice presentazione dentro l'aula universitaria, mi pare che si è trovato molto più a suo agio che a stare dall'altra parte. Adesso avremo tre comunicazioni, questi erano i saluti iniziali, adesso avremo tre comunicazioni che sono la mia, quella del professor Ibrahim Mahdoud, il nostro docente di lingua araba ma anche di storia dei paesi islamici, e poi del ministro Eugenio Campo. Poi a questo punto andremo a pranzo nella sottostante mensa. Io sono geografa, sono felice di essere in quest'aula universitaria, però vorrei portarvi con me in Marocco. Vorrei per un attimo farvi sognare e portarvi a Marrakech. Già il nome è bello, Marrakech. Magico. Lui ci dice subito siete benvenuti, perché l'atmosfera del Marocco, di Marrakech, soprattutto il Marocco, è questa. Siete i benvenuti. Vi troverete a casa. In Marocco uno arriva ed è già marocchino. Noi italiani proprio ci inseriamo immediatamente e felicemente. Dove vorrei portarvi? Vorrei portarvi non nelle aule universitarie, non subito, quelle dopo, in un momento più serio. Vorrei portarvi nel souk di Marrakech. Io credo sia il più bel souk del Nord Africa. E lì siamo circondati dalle lingue più varie, le lingue spagnola, francese, araba, tutte le lingue possibili, immaginabili, perché il Marocco arriva tutto il mondo. E ci sono questi rumori, perché nel souk ci sono automobili, quindi c'è il rumore della gente, il rumore dei passi, le urla di chi vende, i profumi delle spezie, i profumi dei profumi che sono eccezionali, i profumi dei cibi. Poi vorrei portarvi con me in una casa marocchina, una casa di Marrakech. Si entra in questi cortili, si sente il rumore sottile dell'acqua, c'è verde e sentite il canto degli uccelli. Non ci potrete credere, ci sono gli uccelli che cantano. Poi ci mettiamo sui divani comodamente, la grande ospitalità di chi abita a Marrakech vi inviterà certamente a mangiare delle cose buonissime, mescolando il dolce, il salato, piatti eccezionali, pesce freschissimo, dolci di mandorle, miele, zucchero, meravigliosi dolci. Poi vorrei portarvi a fare dei giri, a vedere le rovine, la rovina romana, la rovina fenice, delle cose straordinarie, oppure sulle montagne che arrivano a 4.000 metri, c'è perfino la neve, oppure le Sabbia. Io sono innamorato del colore giallo senape della sabbia. Sono posti da sogno, poi ci sono le spiagge, il mare cristallino. Vi troverete benissimo al bar di lusso, agli albi di meno lusso, sempre un'ospitalità eccezionale. Insomma, il Marocco è un posto da amare, molti ci si sono trasferiti, non si può che capirli. Quando si parte dal Marocco si sta male, non si vuole partire, si spera che l'aereo non se ne vada. Insomma, così. Questo è il Marocco. Grazie, grazie. Grazie. Ministero per lo sviluppo sociale, la famiglia e la solidarietà abbiamo lotta contro la violenza di genere, che ha portato un enorme aumento delle denunce di atti di violenza contro le donne, e c'è una cosa che colpiscono tutti i telefoni. Il Marocco ha inoltre annunciato di non avere più riserve in merito alla Convenzione per l'eliminazione di qualunque forma di discriminazione nei confronti delle donne, e si sta adoperando per depositare i relativi strumenti in seno alle Nazioni Unite. Sottolineo questi aspetti, sono di grande civiltà, sono di grande importanza, rendono i nostri rapporti più semplici. L'Unione Europea e il Marocco hanno un impegno molto gravoso che riguarda la ricostruzione concreta dell'Unione Magrebina Araba, alla luce dei cambiamenti intervenuti, partendo dall'aiuto al recupero di ambiti democratici e partecipativi alla cosa pubblica in tutti i territori. Vanno mantenuti integri e avviati tutti i tentativi di unione doganale e le forme di convertibilità interna delle singole valute regionali tra loro con l'Unione Europea. L'altro impegno riguarda la costruzione del Comitato Economico e Sociale del Marocco nell'ambito del Comitato Economico e Sociale Europeo, che pone alla sua base l'elemento democratico delle parti sociali e degli enti locali, ivi incluse anche le organizzazioni non governative. Su questo piano, il comune interesse delle parti oggi qui presenti concorre relativamente alla risoluzione del Comitato Economico e Sociale Marocchino, finalizzandolo anche all'inserimento del Comitato Economico e Sociale. I rapporti tra Unione Europea e Marocco sono caratterizzati da sempre alla piena pari dignità tra le parti, riconoscendo il ruolo determinante che ha il Marocco sul piano della promozione delle sue strutture democratiche, ma anche della promozione delle stesse sul piano internazionale e in particolare nel piano regionale africano che di questa parte necessita. L'Europa riconosce anche al Marocco un altro ruolo, il ruolo di patria degli esclusi, così come è avvenuto con i siciliani nell'alto medioevo, o con gli spagnoli di religione musulmana, ebraica, convertiti al cristianesimo con la cacciata dalla Spagna dei Moriscos. Parlo di un periodo, un processo che va dal 1492 fino ad oltre il 1600. Però già prima, e qui parlo proprio di Marrakesh, il Marocco aveva accolto a Marrakesh il giudice di Cordova da Roer, nelle persecuzioni spagnole e islamiche del XII secolo. Quindi ha dato rifugio, ha dato ospitalità proprio perché c'è questo grande animo marocchino aperto all'ospitalità. Rinnovo quindi l'auspicio che la collaborazione che oggi nasce in questa aula magna si possa sviluppare al servizio attivo delle nostre comunità. Questo per risolvere concretamente molti problemi, rendendo allo stesso tempo le comunità dei due paesi intercambiabili tra loro sul piano produttivo e sul piano professionale. La ricca cultura e la ricca umanità marocchina ci danno certezza di successo. Vorrei infine farvi una proposta. Vorrei che tutti insieme esprimessimo piena solidarietà alle madri e alle famiglie delle studentesse di Giordano, che si trovano ancora nelle mani del loro rapitore. Sono atti criminali che hanno scosso l'opinione pubblica mondiale, che hanno creato enti importantissimi. Chi più del Marocco protegge e difende le donne può capire questo appello, può essere partecipe di questo appello. L'augurio naturalmente che ritornino il prima possibile alle loro famiglie. نتكلم عن وضعية المغرب وعلاقاتها بالاتحاد الاوروبي. انا نتكلم عن البدايه الاتفاقيات Alcantara, Palacetil, Sento Setil, o va bene Barcellona, o va bene le di famiglia di casa, anche lontano. كانت الاتحاد الاوروبي خاص المغرب بان تكون في السياسه الاوروبيه من بلاد الجوار. بلاد الجوار سنه 2005 في القرار ثم 2013 اتفاقيه الهجره والهجره غير الشرعيه وتنظيمها ومرتباتها والاعتراف في نفس السنه الاعتراف بالشهادات الجامعيه. لذلك هذا اللقاء يشكل احد الدعائم التي نرتكز عليها. احد الدعائم هي قرار الاتحاد الاوروبي سنه 2013 بالاعتراف المتبادل بالشهاده. مكافحه الهجره الشرعيه ومكافحه تجاره البشر و اشارت الى المصرف الاوروبي للتنميه ان المغرب كان من اول المساهمين في هذا المصرف في هذا البنك في لندن سنه 2008 خصص ايضا قضايا المراه والقوانين الصادره سنه 2008 لمعالجه العنف ضد المراه وحمايه المراه. الاتحاد الاوروبي ايضا في يساهم بشكل كبير في بناء المغرب العربي الكبير بمساعدة أوروبية ويشجع على الاتحاد الجمركي ووضع قيم وقوانين في تبادل العملة في المغرب العربي بشكل عام والعملة عملة اليورو الأوروبية. الشيء الآخر الذي يقف عنده الاتحاد الاوروبي هي قضيه الديمقراطيه وقضيه المؤسسات المجتمع المدني. ختمت القول بان كل هذه العلاقات تتميز بالنديه بين الطرفين وخاصه اخص الاتحاد الاوروبي اخص في علاقاته الدولية دور هام للمغرب في افريقيا. ثم اشارت الى البنات الذين تم احتجازهن في نيجيريا وابداء هذا العمل الاجرامي. Bene, quindi abbiamo questo appello che manderemo sulla nostra radio, manderemo sui nostri giornali telematici nei confronti delle ragazze nigeriane, penso che tutti ci possiamo riconoscere. Parlo adesso il professor Ibrahim Maghdoud, che devo ringraziare per aver tanto collaborato alla riuscita di questo convegno. Senza di lui nulla si sarebbe fatto, senza di lui e del professor Porcasi nulla si sarebbe fatto. È un pregiato docente di lingua araba e di storia dei paesi islamici nella nostra Università Niccolò Cusano. Prego, professore. Io in un incontro precedente in questa università ho parlato di due questioni. Una questione è la centralità, cioè il centralismo, eurocentralismo europeo e l'eurocentralismo. Dall'altra parte ho parlato dell'islamocentrismo. Chiaramente questa nostra posizione, sia in questo incontro che in altri incontri, è a trovare l'anello di collegamento e a trovare il modo che questi centrismi diventano meno centrali, che diventa un'ambizione, un'estinzione del pensiero, dell'economia, della società, del diritto, al modo di trovare poi una forma che io chiamerei dei valori condivisibili. Cioè troviamo dei valori condivisibili, chiaramente non possiamo trovare tutti i nostri valori possiamo condividere, però chiaramente fra il bianco e il nero possiamo creare questa zona che raccoglie l'opinione. Dunque, il Marocco. Il Marocco è un paese che io ho sempre considerato personalmente è la locomotiva dell'Unione Maghrebina, del Maghreb, del paese del Maghreb. Perché? Perché il Maghreb è il Marocco. Il Marocco è l'unico paese che ha una struttura, un'istituzione centinaria, se non direi millenaria. Dunque la famiglia, per esempio, alla guida del Marocco già dal 1500-1600 c'è una continuità istituzionale, una continuità di governo e di diritti, piaciuti o meno, ma comunque è un, possiamo considerarlo per il mondo arabo, anche per il mondo islamico, essendo di vecchia costituzione, come un laboratorio di come la, l'idea della democrazia o l'idea del rapporto tra gli uomini, il rapporto tra uomo e natura, il rapporto con l'altro, con quell'esterno, come possono svilupparsi. Dunque noi non possiamo prendere un paese, per esempio anche se il Libio, la Libia che ha avuto l'indipendenza, non è stato mai uno Stato istituzionale fino al 1951-52, è stato creato questa, questo Stato, pure la Tunisia, dopo l'evento coloniale. Dunque il periodo è molto corto per vedere la velocità della trasformazione, dello sviluppo della coscienza politica moderna e di come noi possiamo avvicinarsi a certi valori. Io non dico abbracciare valori, cioè ai valori occidentali, no, ma avvicinarsi a questi valori occidentali. Dunque in questo senso noi abbiamo paesi che hanno la vita, tipo per esempio tanti paesi hanno la vita di 60 anni, di 100 anni, di 500 anni. Dunque quel periodo di cronologico di vita che esistente, più prevede, meno esperienze ci sono, meno radicamento e non possiamo avere in campo, il campo oppure il modo, l'elemento essenziale per la valutazione. Per esempio, per prendere una velocità, oppure anche nella meteorologia, oppure nell'astronomia, ci vuole tempo lungo per poter dare una statistica e stabilire proprio l'indice di sviluppo. Si è parlato prima dello sviluppo del Marocco. Se andiamo a vedere gli anni passati, troveremo che questo indice si è sviluppato piano piano con un concetto, come dire, dell'economia cumulativa che si trasforma, però nello stesso tempo ha le sue basi molto profonde. E l'importanza di questa economia, che è un'economia che si è sviluppata, un'economia che ha avuto a che fare con una cosa che si chiama la storia o si chiama il tempo. Chiaramente non possiamo paragonare un'economia, perché sono economisti, non sono economista, del genere, che con un'economia del petrolio, per esempio, o un'economia solamente che è una produzione senza lavoro, senza non c'è quel meccanismo conosciuto, no, del sviluppo economico. Cioè ci sono dei risorse economici, però non possiamo dire che è un'economia solida, possiamo dire che è un'economia dovuta ai fonti di petrolio o di altro. Tanto vero, cosa comporta questo? Comporta che la governabilità o governance di questi paesi si differenzia. Uno parte da molto tempo, l'altro proprio nell'immediato. Per esempio, vi faccio un esempio semplice. La Libia era considerata, il mio paese, era considerata un paese prima della primavera araba. Succede la primavera araba, gruppi di miliziani del territorio chiudono il petrolio, l'economia si ferma, crolla, più dell'80%. Dunque c'è una produttività del territorio. Una cosa che non potrebbe mai succedere in un paese dove ci sono già delle radici molto profonde e ci sono le accumulazioni. Sì, può avere delle crisi, ma sempre sono crisi passeggeri e facili da recuperare. Ecco, questo insomma è il quadro per avere, per conoscere l'altro, conoscere con chi abbiamo a che fare. Abbiamo a che fare con un, davvero che questa dell'Unione Europea, che parlava la professoressa prima, di dare un ruolo particolare, un ruolo speciale al Marocco nel rapporto sia con l'Africa che nel rapporto per quanto riguarda la nuova costituzione del Maghreb, del Gran Maghreb, che comprende i 5 paesi, il Marocco, la Mauritania, l'Algeria, la Tunisia e la Libia. Perché è vero, per questo è il locomotivo, perché è l'unico paese che può dare delle certezze, specialmente a livello internazionale, delle garanzie. A prescindere da condividere la monarchia o meno, insomma, però è un concetto di una logica storico-politica e sociale e di geopolitica anche in qualche maniera. Dunque, questo incontro noi abbiamo scelto di avere come un nostro partner è il Marocco. Io in questo momento parlo a nome dell'università, nostro partner del Marocco. Perché? Perché è un'università, diciamo, agile, chiamiamo così, no? Piccola e agile, forse più facile, meno complesso a correlazionare con l'altro paese e poi a fare delle proposte, però che siano fattibili, che siano questi accordi che saranno firmati, che non si siano un chiostro sul capo, insomma cose che entrano poi nel cassetto per il tempo che trovano. Questa chiaramente è la cosa più importante, è la mobilità dei docenti e dei studenti, una mobilità del sapere, della conoscenza, la conoscenza dell'altro. Cosa lo significa? Significa che gli studenti marocchini devono conoscere la lingua italiana, gli studenti italiani devono conoscere la lingua araba, ma non perfettamente, ma almeno il meccanismo di questa lingua, come si ragiona, il meccanismo di pensiero, insomma, come ragioniamo, come funziona questa macchina che abbiamo in questo cranio. Ecco, l'altra parte, abbiamo una novità, questa iniziativa della Corte di Cassazione che stimola un accordo, convenzione, un protocollo d'intesa con una università, cioè una novità per tutti e due, uno per studenti di questa università o di altre università, chiaramente connati con l'istituto superiore della magistratura, no? Qua in Italia, con altre istituzioni, a vedere e a conoscere da vicino l'apparato giuridico istituzionale in quel paese. E allo stesso tempo qua a creare dei stage, degli incontri ad hoc per conoscere la legislazione italiana, anzi la novità che ci sono nelle ricerche, perché lo sappiamo specialmente nel diritto penale, diritto civile, che abbiamo qua, ci sono sempre delle novità, è un ambito molto, molto importante per il Marocco. Comunque questo è, diciamo, il piano di operazioni di fare, ma non solo con questa università, non solo con queste informazioni, ma cerchiamo di sviluppare questa forma di accordo. Grazie. لأن دولة المؤسسات الوحيدة العربية أستاذ تكلم عن الدور المهم الذي يلعبه المغرب وقادرة لدول المغرب العربية في ميدان الاقتصادي الاجتماعي كما تكلم عن سأتكلم باختصار معلش كما تكلم عن الملكية الدستورية وتكلم عن الوضعية الخاصة التي جعلت الاتحاد الأوروبي يمنح الوضعية الخاصة للمغرب وأعتقد أنه تكلم في الأخير على التعاون الذي يمكن أن يتم بين هذه الجامعة وبين محكمة النقد التعاون الذي يمكن ان يقع بين هذه الجامعه وبين محكمه النقد من جهه وبين التعاون الذي يمكن ان يقع بين هذه الجامعه وبين جامعه القدائيه مراكش وتكلم على ان الطلبه الايطاليين يجب ان يتعلموا اللغه العربيه وكما ان الطلبه المغاربه عليهم ان يتعلموا اللغه الايطاليه حتى يتسنى ذلك التبادل والتقارب الثقافي واعتقد ان هذه الخطوط العريضه التي تكلم عليها الاستاذ وشكرا. لا تمام grazie molto professor Joachim Batut, grazie ai professori eccellenti di questa adesso la parola è al ministro Eugenio Campo. Grazie di aver invitato anche a mio nome e al Ministero degli Esteri a partecipare a questo incontro. Sono grato perché mi viene dato modo di esprimere un po' quello che il Ministero degli Esteri attraverso la cooperazione ha fatto, anzi in generale in particolare con il Marocco. Mi associo alle espressioni che la professoressa Pagnini sul Marocco, ricordo qualche anno fa un convegno che si è tenuto proprio a Marrakesh con la Banca Mondiale per mettere insieme un programma di finanziamenti ai programmi e ai progetti infrastrutturali del Marocco. Risento ancora quel sentimento dei colori, il contatto con la popolazione che la professoressa Pagnini ha espresso molto bene. Il mio compito è qui di dire quello che ha fatto la cooperazione italiana attraverso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri, all'interno del Ministero insieme alle altre organizzazioni che il Ministero sostiene per sviluppare i rapporti commerciali, i rapporti culturali e i rapporti scientifici. Vado un po' per sommi capi anche per non rendere più facile il compito del professor Madud che poi dovrà tradurre agli amici marocchini le linee della cooperazione. In sostanza, la cooperazione bilaterale è in particolare quella italiana surrogato l'incapacità, bisogna dire, il fallimento dell'Unione per il Mediterraneo di poter svolgere un'azione veramente di partenariato con questi paesi. Perché l'Unione del Mediterraneo è stata un fallimento? Perché le situazioni particolari, la situazione politica di questi paesi, i contrasti tra gli stessi paesi che ne fanno parte del Mediterraneo, ha reso un po' difficile, e soprattutto il concentrarmi sulle questioni di sicurezza, hanno lasciato un po' l'Unione, questa iniziativa che è stata fondamentalmente presa dalla Francia, in compartecipazione con l'Italia e con la Spagna, è stata un po' presa di sorpresa dagli avvenimenti e non è stata in grado di reagire. L'unico modo in cui si è attivata una cooperazione, a parte quella cooperazione multilaterale di cui ha parlato la professoressa Pagini, è stata quella bilaterale, e l'Italia ha contribuito in questo modo a dare senso e concretezza ai rapporti con il Mediterraneo, perché ha cercato di sviluppare soprattutto la partecipazione della società civile. Il dramma delle primavere arabe è nel fatto che proprio la società civile è stata abbandonata, che la società civile, intendo per società civile le istituzioni accademiche, le associazioni, le istituzioni scientifiche, che sono un po' state tenute fuori dal processo di riforma in atto in quei paesi e che non hanno dunque arrecato nessun aiuto. Attraverso la cooperazione bilaterale. Mi riferisco alla cooperazione con il Marocco che hanno avuto e, come ho detto, è stata incentrata soprattutto sullo sviluppo della società civile, facilitando quelle iniziative che riguardavano le università, che riguardavano le associazioni di categoria, che riguardavano la cooperazione scientifica e culturale. Con questo credo che sarà possibile rispondere anche ad alcune indicazioni che sono venute anche per il processo futuro che dovrà avere questa cooperazione. Il quadro generale, l'Italia negli ultimi anni, i progetti finanziati dalla cooperazione italiana arrivano a oltre 63 milioni di euro, sono pochi rispetto a quelli che offre la cooperazione multilaterale. Se consideriamo che il programma di vicinanza concerne non i paesi del Mediterraneo, ma concerne 16 paesi, dividendo la montagna, che sono 15 milioni dell'ultimo finanziamento, non è che venga molto. Va bene che bisogna vedere che alcuni di questi paesi, come la Russia, come la Siria, non fanno più parte, e che la cooperazione è concentrata soprattutto con i paesi del Mediterraneo, però ripeto, è uno sforzo notevole che l'Italia ha fatto con 63 milioni di erogazioni. Questi 63, in aggiunta a questi 60 che vanno proprio per progetti bilaterali, che sono intervenuti due accordi importanti, cosiddetti di conversione del debito. L'Italia ha convertito il debito che il Marocco aveva assunto per iniziative programmate in passato, periodi di grazie e periodi di finanziamento, li ha convertiti e si è creato con questo un comitato paritario italo-marocchino, il quale decide di trasferire questi crediti e trasformare questi crediti in finanziamenti. Dove vanno questi finanziamenti? Ci sono stati due accordi, uno di 35 milioni nel 2005 e un accordo nel 2005 di 63 milioni, scusate guardo un po', le 15 milioni nel... Questo secondo accordo del 2009 è stato destinato soprattutto a finanziare progetti di organismi non governativi, soprattutto di organizzazioni locali per intervento a favore delle donne, a favore delle coltivazioni dell'artigianato locale, a favore dello sviluppo dei consorzi di esportazione. Sono quindi 15 milioni di dollari. Inoltre è stato... oltre a questi accordi, iniziative fondamentali, accordi di conversione del debito, iniziative fondamentali, cito quelli più interessanti, cito un po' a polo lucente, perché sono settori fondamentali. E mi piace segnalare in primo luogo un intervento a sostegno del settore del microcredito. settore del microcredito significa mini finanziamenti per imprese locali e un mini finanziamento per le comunità marocchine che intendono, ripeto, per i marocchini che hanno lavorato in Italia, che intendono nel loro paese, da sviluppare con piccolissimi finanziamenti, ma è qui che nasce il tessuto, oltre che svilupparsi del tessuto delle piccole e medie imprese. Sono stati dati per questo sostegno ben 5 milioni di euro e sono state create associazioni di microcredito operanti, 14 associazioni di microcredito già operano in Marocco con l'aiuto della cooperazione italiana. In più si stanno attivando rapporti con le banche marocchine e le banche italiane per favorire il flusso delle rimesse che dall'Italia, da parte presso questi paesi, che hanno raggiunto, data l'entità della comunità dei marocchini in Italia, hanno raggiunto delle dimensioni. Flussi che a volte prendono delle vie disperate. Questo accordo di microcredito serve anche a concentrare, a canalizzare queste iniziative di microcredito verso canali legittimi e trasparenti, in modo da valorizzare al massimo le capacità di risparmio deboli della comunità marocchina in Italia, sempre nel riflesso che occorre creare un forte vincolo per questi paesi. Il tessuto delle piccole e medie imprese italiane si è sviluppato soprattutto attraverso le casse cooperative, casse di credito cooperativo, che hanno sviluppato progetti di piccolo e medio intervento. Un altro settore che risponde anche al bilancio che è stato qui dal Presidente dei commercialisti, è quello di sviluppare e favorire la formazione di consorzi per la valorizzazione dell'esportazione. Questo rientra nel concetto di internazionalizzazione. Molte attività marocchine nel settore agricolo, nel settore anche dei fosfati e di altre iniziative, hanno bisogno, dei fosfati è già una cosa grande, importante, ma altri settori più dell'artigianato, del tessile, hanno bisogno di creare il piccolo imprenditore marocchino, non può da solo sviluppare le proprie capacità in direzione dell'esportazione, occorre creare dei consorzi, occorre creare dei centri, dei cosiddetti cluster. Questo sistema, questo qui che sono 5, anche qui sono 5, un milione di euro subito, ed è anche un milione di 15 milioni di euro, è proprio destinato a favorire la costituzione del Marocco di questi consorzi. La cooperazione italiana si avvale, il governo italiano si avvale per questo, dell'appoggio di un organismo internazionale, l'UNIDO, la quale appunto è specializzata nella creazione e nello sviluppo di questi consorzi per l'esportazione. Un altro settore è quello del sostegno delle piccole e medie imprese. L'Italia ha dato una linea di credito per l'acquisto di beni in Italia. Questo potrebbe dare luogo a qualche sospetto. L'Italia fa la cooperazione per favorire la vendita dei propri prodotti, ma questo non è, perché questa linea di credito è fatta per la creazione di imprese miste italo-marocchine che hanno bisogno, anche siccome sono collegati, i due mercati sono collegati, hanno bisogno di valorizzare le tecnologie locali, ma anche di utilizzare le tecnologie italiane che in alcuni settori sono preminenti. Un altro settore importante, credo, è quello delle attività di formazione. Abbiamo la cooperazione italiana, ha dato un contributo di 2 milioni di euro a un centro dell'Emilia Romagna per l'innovazione del tessile per favorire il rafforzamento qualitativo del settore tessile e dell'abbigliamento. Si tratta di fare dei corsi di riqualificazione professionale, di diffusione dell'informazione e della creazione di un centro di servizi telematici. Questo sul piano strettamente bilaterale. Esiste poi una cooperazione multilaterale con la quale l'Italia, attraverso gli organismi internazionali, favorisce la cooperazione per quei paesi, anche qui nel campo della formazione e nel campo dell'assistenza al partenariato pubblico e privato. Mi piace segnalare in questa che c'è un programma di Ministero della Sanità marocchino, un programma di formazione di personale medico e paramedico marocchino in Italia e scambio anche di personale tra i due paesi, per cui molti degli infermieri marocchini che ci sono in Italia, che proprietari vengono anche da queste forme di sviluppo e di cooperazione multilaterale. E concludo con questo, proprio con un'iniziativa all'Unione del Maghreb, con l'Unione del Maghreb, che è stato proprio per la modernizzazione delle gare pubbliche d'appalto in tutti i paesi del Maghreb. E si tratta di una strategia che riguarda un po' la trasparenza di tutte le forme, di tutti gli appalti pubblici. Voi sapete quanto questa settore degli appalti pubblici dia in Italia le stesse eventi che adesso con l'Expo di Milano ha creato questo. Si tratta di razionalizzare questi appalti pubblici in modo che ci sia trasparenza, non ci sia corruzione e non ci sia. Questi un po' sono i settori. In aggiunta a questi, l'Italia ha sviluppato anche una cooperazione nel campo dell'università. Tutte e il professor Procasi abbiamo in passato partecipato a diverse riunioni in quelle di Palermo, di Mazzara del Vallo, e proprio a quelle riunioni si è finalmente dato senso alla creazione di una rete sud del Mediterraneo che dovrebbe adesso cominciare a funzionare attivando delle cooperazioni. Vedo che l'università Fusano non è ancora rappresentata, ma questa è un'iniziativa rete sud per cui sono soprattutto l'università di Palermo, l'università di Catanzaro ed altre, ma che queste allargate in realtà siamo proprio adesso si tratta di allargarle a questa. L'Italia poi sostiene diverse associazioni, la cooperazione scientifica di cui pure si sono occupati in passato, c'è un accordo con Tecnopolis. Queste sono solo piccole presentazioni del convegno con gli anziani. Questo è anche questo un settore in sostanza, per farla breve, visto che sono già stato abbastanza lungo, la cooperazione italiana ha l'intento di sviluppare le capacità del settore privato, nel Marocco e in tutti i paesi in generale, soprattutto di sviluppare le capacità della società civile sul piano culturale, sul piano scientifico, sul piano delle conoscenze. E questo è un po' lo stimolo che viene portato avanti. L'idea è quella di ricreare su nuove basi l'Unione del Mediterraneo. Nuove basi che devono essere centrate proprio sulla società civile, sulle capacità di partenariato, mentre l'Unione Mediterranea è stata un po' intesa come il trasferimento di modelli francesi, italiani e spagnoli verso questi paesi. Ora la nuova Unione del Mediterraneo dovrebbe essere invece un'unione portata su un vero e proprio partenariato. Voi sapete che il primo ministro italiano ha effettuato la sua prima visita all'estero in Tunisia, proprio dopo che questo paese è stato, con la Costituzione, è stato un po', ha portato avanti il processo di stabilizzazione, di post-stabilizzazione. Prima della Tunisia c'è il Marocco, già abbiamo un'azione di post-stabilizzazione, prima la quale adesso concerne vari problemi anche per il rapporto tra il monarca Mohammed e le varie istituzioni, ma che tuttavia si sta muovendo. La Costituzione tunisina anche quello su questo. Dobbiamo aiutare questi paesi, la Tunisia, ma anche gli altri che ancora non sono in questa fase, sviluppando proprio le energie locali. Più che un dialogo politico, ci deve essere un dialogo di concretezza con questi paesi. È stato annunciato anche che ci sarà prossimamente un convegno per il market, su cui però le idee non sono create, appunto a ricreare sulla base delle attività che si sono fatte una nuova unione del Mediterraneo, una nuova unione del mare. Perché ritornando, i programmi dell'Unione Europea sono troppo vasti perché concernono 16 paesi, alcuni del Mediterraneo, occorre invece concentrarsi, bisogna fare un discorso diversificato. I paesi dei Balcani hanno esigenze diverse da quelle che sono i paesi del Mediterraneo. Occorre creare una nuova unione, occorre creare un nuovo partenariato. Questo è un po' l'intento che è stato espresso dall'Italia. Occorre che dall'Italia, da una visita, speriamo che si traduca, che come le promesse dei politici si traducono in fatti concreti, ma comunque credo che questo deve essere un po' la proposta che, siccome si parla di questo convegno, anche di fare una proposta. La proposta è che la società civile utilizzi sia i programmi dell'Unione Europea, sia i programmi della cooperazione bilaterale per mettere insieme e per partecipare, in modo che sia essa stessa a fare le proposte per una nuova. Dunque l'idea è quella di ricreare l'Unione del Mediterraneo secondo un nuovo spirito, secondo una nuova nuove iniziative di sviluppo della società civile. جمعية صغيرة للتنمية somma le tavole che facendo non so che potere che ti percire che mi dette che ti è un po' più agili che ti dato tasso ua del tipo più agili che mi sarebbe a salire di mi dette alfa del mio المشاريع كونسورسيوم او اتحاد او ائتلاف بين مجموعات من الشركات بين الجماعات وذلك هناك جمعيه اسمها في مدينه بولونيا وتعطيت 15 مليونا لهذه الجماعات ولهذه المراكز وذلك بمساعده الامم المتحده من الميم إذن النقطة الخامسة تركز على مساعدة وتنمية المشروعات تأسيس الشركات المتوسطة والصغرى والشركات المشتركة لأن رأس المال المشترك الإيطالي المغربي. النقطة السادسة المساعدة طبعا هذه كلها مشاريع تمول المساعدة للتأهيل وقد منحت 2 مليون لمؤسسة في وسط إيطاليا وذلك لتأهيل مغاربة في مجال صناعة النسيج المنسيجات هذا إذا تركزت سياسة إيطاليا بالنسبة للمساعدات على مستوى المغرب العربي في التأهيل والإدارة المساعدة في الإدارة يعني ترشيد الإدارة والمجتمع المدني والصحة وهناك اتفاقية لتبادل الأطباء والممرضين بين المغرب وإيطاليا هناك أيضا اقتراح الإدارة بالمغرب العربي اتحاد المغرب العربي أن يتعلق بالعطاءات العامة العطاءات العامة أن تكون هناك تحديد طريقة هذه العطاءات وتكون هناك شفافية في تنفيذها. الموضوع الآخر الذي نتكلم عنه هو شبكة المتوسط بين الجامعات وهي شبكة تشارك فيها مجموعة من الجامعات المتوسطية لتبادل المعلومات سواء فيما يتعلق بالإدارة الجامعية أو فيما يتعلق بالمكتبة أو فيما يتعلق بشؤون الطلبة وتبادل المعلومات عن سير كل قطاع من هذه القطاعات. إذا اختتم قائلا تنمية القطاع الخاص المجتمع المدني تأسيس اتحاد متوسطي جديد بدل الاتحاد الأول يكون فيه الأساس المجتمع المدني وأن يكون هناك يقول أنه من القريب سيكون هناك مؤتمر بوصف مؤتمر المغرب المغاربي يعني مؤتمر المغاربي لتأسيس اتحاد متوسطي جديد يكون ارتكازه على المجتمع المدني وعلى البرامج الأوروبية الثنائية بين دولتين كل دولتين على حدة واختتم قائلا السلام عليكم Abbiamo ancora un ultimo momento per un'ultima relazione. Invito il dottor Arnaldo Quarelli, presidente della Fondazione Etica per Roma, a salire qui. No, c'è una sedia. Dopo abbiamo il pranzo. Poi ci ritroviamo qui verso le 3, così abbiamo un attimo di pausa e poi alle 3 avremo anche al pomeriggio la firma di questi accordi con il rettore e con il vice rettore dell'Università Cagliari di Marrakesh, avremo la firma degli accordi sia universitari e poi anche degli accordi con il Consiglio e con la Corte Suprema del Marocco che sono davvero un fatto eccezionale per cui siamo molto grati al Marocco e alla Corte. Prego. Grazie per l'invito, sono Acquarelli e ho costituito tanti anni fa, in tempi non sospetti, la Fondazione Etica ed Economia, di cui oggi si parla tanto, e la mia presenza in questi convegni ha un solo obiettivo, è quello effettivamente di riportare un po' queste nuove convergenze economiche e sociali in questi contesti di aggregazione anche economica, quelli che sono i principi dell'etica, perché senza etica poi si devia e ovviamente incorriamo in quello che abbiamo sentito poco fa anche dal ministro Campo, queste brutte storie sugli appalti, sulla pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Allora, la mia funzione è quella proprio di ricordare che questo appuntamento epocale dell'etica dell'economia oggi è una realtà, addirittura per Amartya Sen, il nostro, diciamo, faro, che anche pochi giorni fa era qui a Roma, l'Accademia degli Ingegneri, ha ripetuto proprio che stiamo andando verso una terza via dell'economia, un'economia sociale, condivisa, in cui al centro ci deve essere l'uomo, la sua dignità, la tutela della sicurezza, la tutela della sanità, eccetera. E poi c'è questo fine soprattutto del bene comune rispetto al bene privato, al bene individuale. Ecco, se questi concetti li riportiamo in ogni contesto di economia, cioè di attività di qualsiasi tipo o di crescita e costituzione di nuovi organismi come quello dell'Unione del Mediterraneo, credo che sia molto, molto utile. Noi ci occupiamo ovviamente di diffondere questi concetti che sono ormai concreti, sono ormai modelli econometrici. Ormai c'è una disciplina universitaria che si chiama proprio econometrica. C'è una cattedra anche in Italia, si sta diffondendo con questi concetti che fanno bene a tutti, cioè condividere ormai un'attività economica, avere il consenso, far partecipare, che diventi un progetto comune, sicuramente dà maggiore efficacia, efficienza e economicità, non c'è dubbio. Quindi conviene a tutti applicare queste formule che rispettano la persona, che rispettano l'ambiente, che rispettano le risorse naturali e sono concetti fondamentali per questa nuova economia sociale o cosiddetta dal basso. Noi operiamo soprattutto nella scuola perché, come ho sentito poco fa, la diffusione di questi concetti, cioè di questa come dire, vicinanza con tutti, di questo reciproco scambio culturale, sociale, della comunicazione, questo scambio di professionalità, scambiamo i nostri saperi, la nostra conoscenza, è fondamentale. Non per niente si dice, ma se io do una moneta a te, tu la dai a me sempre una moneta, ma se io do un'idea a te, tu la dai a me, io ho due idee, insomma. Quindi è una leva di sviluppo, lo scambio è una leva di sviluppo. La diversità è un grande opportunità. La diversità e le esperienze passate, storiche, sono una grande opportunità, proprio una leva dello sviluppo, un salto di qualità. E quindi questo è fondamentale. Operiamo quindi nella scuola perché la persona si cambia quando è piccola, quando ha le prime acquisizioni, quando comincia a conoscere, è lì che formiamo. E poi certo noi abbiamo inventato il villaggio impresa, stiamo sviluppando proprio in Africa, nel Madagascar, abbiamo lì 10 villaggi imprese, abbiamo a Mashanga. E che cosa consiste? Stiamo assistendo, cioè in qualche modo aiutiamo queste piccole artigianali imprese a crescere con l'intervento di maestranze ovviamente italiane, avendo invitato in Italia queste persone, questi giovani, avendo frequentato le nostre aziende, l'azienda poi ha aiutato queste persone ormai già esperte a sviluppare e creare di iniziative economiche, anche perché se non si sviluppano questi paesi, noi 12 anni fa quando abbiamo costituito la fondazione ci apparentavamo che 15 milioni di persone sarebbero venute in Europa nei prossimi 20 anni, e siamo a buon punto. E allora che vogliamo fare? Vogliamo creare questa concentrazione di popolazioni in un continente e sguarnire l'altro e magari disperdere tutte le risorse, le capacità professionali, umane, eccetera, e concentrarci tutti su da una parte? È impensabile, non certo aiuta tutto questo, quindi dobbiamo far sviluppare, ci conviene sviluppare, esportare i nostri saperi, la nostra tecnologia, la nostra innovazione, delocalizzare, questo è il punto fondamentale, anche a costo ovviamente di talvolta creare nel nostro contesto qualche disuguaglianza, però questa differenza, questa disuguaglianza fra nord e sud non c'è dubbio che va recuperata, e va recuperata proprio con questa attività, con questa cooperazione che a fatica si sta realizzando, da Barcellona nel 95, poi Lisbona nel 2000, ma il processo è lento e noi europei non diamo un buon esempio, sono ormai più di mezzo secolo che tentiamo di fare una unione e non ci riusciamo, con tutti i guai, perché se l'Europa avesse veramente una unione politica potrebbe fare una politica estera veramente incisiva, potrebbe fare una politica di sicurezza veramente incisiva, quindi capiamo che c'è una grossa difficoltà nel crescere. E mi piace ora dire, l'altro giorno sono stato a un convegno all'Accademia dei Licei, dove che è stato il promotore del CENSE, si è detto una cosa che ha sgomentato un po' tutti, c'erano le altre personalità dell'economia italiana e mondiale. Stiamo attenti, perché si rischia di creare un'elite della conoscenza, cioè si rischia di essere autoreferenziali, di lavorare tanto, di spendere anche tanti soldi, ma di non far atterrare i risultati della conoscenza, della scienza, dell'innovazione, eccetera, eccetera, eccetera. Di non far atterrare, cioè rimane sugli scaffali tutto questo, oggi ovviamente nei fatti dell'informatica, ma non atterra e quindi non dà quei risultati e quindi c'è una distorsione. Allora, dobbiamo stare molto attenti a questo, quindi diffondere la conoscenza alla gente, ma proprio alla gente. I mass media hanno un grande compito, quello di coinvolgere la gente. Ho sentito parlare della gente come civiltà, come paese, insomma, che effettivamente deve essere coinvolta in tutto questo, perché non si crei questa separazione da un'elite della conoscenza, della dirigenza, della governance, e poi la gente, il popolo, il mercato, eccetera. Allora questo dobbiamo stare attenti, bisogna creare queste cabine di regia, questo coordinamento superiore, bisogna creare un coordinamento dei vari progetti, delle varie strutture, in modo che si possa veramente essere più concreti, più finalizzare bene questi sforzi. E questo è quello che proposte ce ne sono tante, devo dire che l'attività di tutti i soggetti, privati e pubblici, è molto intensa in questa creazione di una unione del Mediterraneo. Noi figuriamoci, auspichiamo il villaggio globale, noi della Fondazione, ma ci stiamo incamminando poi in fondo in questo villaggio globale, ormai questa globalizzazione della comunicazione e anche del mercato, e effettivamente sta lavorando anche con sicuramente delle disfunzioni, ma sta lavorando per creare questo del Mediterraneo. Sicuramente è naturale quasi che questo bacino possa, che sia luogo di colleganza di civiltà, di arte, di cultura, di sport, di comunicazione, di risorse, ma è naturale, è sempre stato ovviamente nella storia del passato, oggi dobbiamo soltanto rinverdire queste assonanze che abbiamo, questi punti di contatto, perché effettivamente è una cultura che potrebbe essere sottofondo di uno sviluppo intenso e molto interessante. Dicevo sulle proposte, io ne avevo una anche quando il collega se lo ricorderà, ero presidente dell'ordine, era quella di creare un registro delle professioni giuridico-economiche del Mediterraneo, per esempio, no? Perché poi la colleganza è fatta di uomini e sapete che l'economia, lo scambio economico è quello che ha creato la rete umana, ha creato, no? Sono stati i primi contatti, i primi sviluppi, e io do una cosa a te, tu la dai a me, c'è cioè, solidarietà. Ecco, creare un registro delle professioni, intanto economico-giuridiche, credo che sia una cosa possibile, in modo che si parla un po' la stessa lingua, si conoscono le normative, si armonizzano le normative, perché dobbiamo andare verso questo termine va usato, armonizzare. Ho sentito parlare prima, per esempio, della giustizia, no? E ben volentieri il nostro Consiglio Superiore della Magistratura metterebbe a disposizione per la formazione congiunta, per esempio, con il Marocco, anzi, posso essere promotore, visto la mia vicinanza con l'attuale vicepresidente, per creare una scuola, l'ha fatto già in Albania nel 2003, il Consiglio Superiore della Magistratura, l'ha fatto nei paesi dell'est, l'ha fatto. Quella è una cosa molto importante, per esempio, che in modo che la normativa sia conosciuta o comunque anche armonizzata, perché poi gli scambi, la sicurezza avrebbe un grosso vantaggio, e questo sembra una bella cosa. Mi piace anche ricordare un'altra proposta che avevo fatto, era quella di una camera arbitrale, per esempio, del Mediterraneo. Si sta approvando la camera arbitrale di Milano, devo dire anche con molto successo, per dirimere le vertenze che ci possono essere con le piccole e medie imprese del Mediterraneo. Quella, però costituire proprio una camera arbitrale per le vertenze contenziosi sarebbe anche per uno sviluppo importante per evitare proprio di andare in questi giudizi che si complicano le cose, poi questo sicuramente. Noi come fondazione poi in Africa abbiamo la Mutua Fidebank. Che cos'è questa Mutua Fidebank? La Mutua Fidebank è una sorta di banca, ma un po' diversa, dove si mettono minimo 100 euro, ma questi si mettono non perché si vogliono poi ritornare indietro rimborsati e magari anche con gli interessi, no, vengono regalati in questa Mutua Fidebank che poi, guarda caso, in certi posti 10.000 euro, 5.000 euro permettono di sviluppare il lavoro per tante famiglie, e abbiamo questo esperimento noi proprio di Madagascar che funziona molto, ma questo diciamo è uno spunto per parlare di microcredito, perché se noi non aiutiamo dal basso le piccole e medie imprese, cioè gli artigiani, una camera di commercio per esempio del Mediterraneo, una camera di commercio del Mediterraneo che possa, come dire, convogliare tutti i prodotti artigianali da ambo le parti e scambiarli è fondamentale, perché la vera cultura è quella tradizionale, quella del manufatto, è quella dell'artigiano, che però si disperde, vedete, con la tecnologia che avanza si disperde, quello che è successo poi in Italia è paradossale, un patrimonio così importante, ma perché non c'è nessuna istituzione che si preoccupa di questo del Made in Italy, e tanto potrebbe essere degli altri paesi del Maghreb. Queste e tante altre ovviamente si potrebbero essere proposte, ma io mi fermerei qua perché ritengo che si debba ancora lavorare molto, e purtroppo è una strada lunga, perché mettere insieme culture diverse, realtà diverse, eccetera, non è facile. Noi dell'Europa non siamo un buon esempio. E quindi mi auguro che questi convegni siano appunto la spinta per continuare a fare operare, ecco, e magari concretamente. Grazie. Va bene, visto che adesso c'è la produzione, io devo andare un attimo a casa a portare delle chiavi a mamma che è rimasta fuori casa e mi ha chiamato, tanto ho detto che inizia le gare. Sì, tu ci stai qui, sì, المقترح الأول إنشاء سجل canonismo, la stessa tira, e quando canonismo, la stessa tira, e quella le stesse celle, dove il punto posto, tu dai che l'intervento del mare è contato, di finire il magello, o ai non, te già ho scalie di luogo, o è scalie di parto, tanto ho parto a te scegliare, ma non è scegliare, o è scegliare. ثم الأخرى الثانية اللي هي إنشاء غرفة للتحكيم المتوسطة هذا التحكيم المتوسط للنزاعات والخصامات التي قد تنشأ أو قد تحدث بين المشاركين في الأعمال الاقتصادية أو غير الاقتصادية و يساعد ذلك ايضا المقترح الثالث ان يكون تاسيس غرفه تجاريه متوسطيه تجتمع فيها الغرف التجاريه في المتوسط وذلك لتسهيل التبادل وتسهيل التجاره والاقتصاد بين الدول. Grazie infinito, Giuseppe. Quanto ci sono aiuta tanto in questa traduzione della sua splendida lingua araba. E a questo punto noi ci fermiamo, c'è la mensa sotto che ci aspetta, ci ritroviamo il pomeriggio verso le 3, ma insomma l'orario arabo romano verso le 3, e avremo la firma degli accordi oggi pomeriggio, verrà qui il dottore per fare la firma assieme ai nostri illustri ospiti. Ringrazio questi illustri ospiti marocchini che ci hanno tanto onorato con la loro visita. Ringrazio molto tutti i partecipanti, i relatori e il pubblico attentissimo, devo dire un pubblico d'eccezione. Riprendiamo questo.